le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Ci sono 3.000 europei nell'ISIS, un attacco è inevitabile, dice il responsabile antiterrorismo di Bruxelles. In Spagna 9 arresti, ne parleremo anche col ministro dell'interno Angelino Alfano. Nuovi raid nella notte. Il caso di De Magistris, condannato e sindaco, il presidente del Senato dice che la legge Severino va applicata, lui controbatte, l'ex ministra avvocato della controparte. Decine di migliaia di foto pedopornografiche nell'archivio dell'ex nunzio apostolico Vesolovski, si cercano i complici. Renzi torna sulla riforma del mercato del lavoro, non sarà un pasticcio, promette, poi parla di poteri forti. Anche Santoro non va, sempre più in crisi talk show, i programmi di approfondimento politico, meno del 6% di share per servizio pubblico. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, vi trasmettiamo oggi dal Cersaie e da Bologna. Ospiteremo tra l'altro il presidente di Confindustria Ceramica per cercare di fare un punto sulla situazione del settore, che tra quelli, naturalmente essendo legato all'edilizia, a doppio filo all'edilizia, ad aver sofferto di più della crisi. Ma in apertura parliamo di terrorismo internazionale. Le cronache ci raccontano di nuovi arresti, questa volta in Spagna, e del responsabile dell'antiterrorismo europeo che lancia un allarme. Sentiamo. È un ex militare spagnolo, il leader della cellula collegata all'ISIS, smantellata oggi dalla polizia iberica. In tutto sono 9 le persone arrestate all'alba a Melilla, l'enclave spagnola in territorio marocchino, e a Nador, in Marocco. Sono tutti di nazionalità marocchina, tranne lo spagnolo, ritenuto il capo del gruppo, che in passato aveva prestato servizio nell'esercito iberico, ma poi era andato in Mali e in altre zone di conflitto come miliziano della Jihad. Il suo ruolo, secondo la polizia, era quello di reclutare combattenti per conto dello Stato Islamico. Secondo le ultime stime sarebbero 3.000 i foreign fighters partiti dall'Europa e andati in Siria ed Iraq per combattere con l'ISIS. A renderlo noto è il coordinatore europeo contro il terrorismo, De Kerckhoff, che in un'intervista alla BBC oggi ha anche messo in guardia dal rischio di rappresaglie e attentati nei paesi del vecchio continente che partecipano ai raid aerei contro le basi operative del Califfato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24. E intanto proseguono i raid. Gli Stati Uniti hanno identificato l'assassino dei giornalisti James Foley e Stephen Sotloff, uccisi dall'ISIS. Ad affermarlo è il numero uno dell'FBI, James Comey, che però non ha voluto al momento rilasciare il nome del presunto assassino. Si tratta del boia dall'accento britannico comparso nei due video. Intanto vanno avanti i bombardamenti. Tra ieri e oggi caccia e bombardieri americani hanno compiuto 11 raid contro diverse postazioni dell'ISIS in Iraq. Ieri l'attacco più importante a diverse raffinerie in Siria, che è forse uno dei pochi modi per atterrare l'ISIS, l'organizzazione terroristica che grazie alla vendita di contrabbando di greggio sta diventando sempre più ricca e potente. Nelle raffinerie, secondo le stime dell'intelligence americana, l'ISIS produce tra 300 e 500 barili al giorno, per un incasso complessivo che raggiunge i 2 milioni di dollari al giorno. Aumenta il capitale, aumenta l'indipendenza dell'ISIS e la possibilità di accalappiare gli jihadisti stranieri con cui allargare il territorio controllato verso l'Arabia Saudita. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tutto questo naturalmente è stato al centro delle discussioni all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove si è parlato anche di Libia, ne ha parlato il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Ma andiamo con ordine, saluto intanto Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Alberto, buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti voi. Allora, tra un attimo parleremo di Libia, però voglio portarti prima sul tema di questa minaccia terroristica che torna ad avvolgere, a colpire l'Europa, in particolare l'Europa quasi, molto più degli Stati Uniti dopo quello che vivemmo, dopo gli attentati dell'11 settembre. Ma non c'è dubbio, le cifre che sono state date nel servizio sono ormai quelle che circolano da diverse settimane, si parla di almeno 3.000 guerriglieri europei. E chi sono? Sono o di origine cittadini europei di origine musulmana, oppure sono europei convertiti all'Islam. Ci sono video che mostrano combattenti francesi, inglesi, belgi, addirittura arrivati in Siria con la famiglia e i bambini anche piccoli. Questo dice di gran lunga qual è il problema e il pericolo futuro una volta che fosse sconfitto l'ISIS, cioè il ritorno dei combattenti dall'estero, come all'epoca gli ex combattenti afghani tornarono nei loro paesi di origine, dando poi vita alle cellule della jihad islamica e dell'islam radicale in paesi come l'Egitto, la Libia, l'Algeria e via discorrendo. Poi c'è il tema della Libia, del quale che ha voluto sottolineare ieri il Presidente del Consiglio nel corso dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Un tema che a noi sta molto a cuore, naturalmente, anche perché da là transitano gran parte degli immigrati che arrivano sul nostro territorio e che però la comunità internazionale sembra aver dimenticato. Noi italiani purtroppo non ce lo siamo dimenticato questo tema, per i profughi come dicevi tu che arrivano a migliaia e anche per la questione che la Libia rappresentava rappresenta tuttora un importantissimo partner economico per l'Italia, lì prendiamo gas e petrolio, ci sono le pipeline, ma è anche un paese dove le aziende italiane esportavano, prendevano commesse e oggi questo paese è frantumato, almeno in due grosse regioni, la Tripolitania e la Cirenaica, addirittura il governo della Tripolitania è in esilio in Cirenaica a Tobruk che vive praticamente su un traghetto greco noleggiato, mentre nella Tripolitania c'è un governo non eletto che però sarebbe l'espressione del vecchio Parlamento che era stato esautorato con le elezioni del giugno scorso. Quindi siamo di fronte a una situazione davvero problematica e oltretutto con la presenza di gruppi radicali come Ansar e Sharia, che sono gruppi importanti a Bengasi e dove il generale Khalifa Haftar, che si era un po' proposto come l'uomo forte della situazione, non riesce a venire a capo. Allora, grazie ad Alberto Negri sempre per le sue analisi puntuali e intanto viene battuta in questi minuti dalle agenzie una notizia, ossia che tra i circa 100 civili uccisi la scorsa notte in Afghanistan orientale, nella provincia di Ghazni, in un massiccio attacco dei talebani, 15 sono stati decapitati con l'accusa di essere agenti del governo. L'altra notizia del giorno è quella che riguarda l'Italia ed è qua che ci spostiamo con la vicenda appunto del sindaco di Napoli, De Magistris, sulla quale interviene anche il Presidente del Senato, Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Così duro attacco del Presidente del Senato e altrettanta dura replica dell'interessato. La legge Severino, dice Pietro Grasso, va applicata, è stata già applicata anche ad altri sindaci, penso sia inevitabile applicarla. Dunque per il Presidente del Senato De Magistris dovrebbe essere sospeso dall'incarico, ma il sindaco non ci pensa nemmeno a farsi da parte, parla invece di sentenza vergognosa, di stato profondamente corrotto, invita i giudici a dimettersi. L'ex magistrato spiega che la legge Severino, in base alla quale vorrebbero sospenderle, di un ministro che, guarda caso, dice difensore della sua controparte nel processo a Roma. Ricordiamo il caso. De Magistris è stato condannato ad 1 anno e 3 mesi per abuso d'ufficio per la vicenda delle utenze di alcuni parlamentari che sarebbero state acquisite senza le relative autorizzazioni nel 2006, quando era pubblico ministero a Catanzaro e titolare dell'inchiesta denominata Why Not. Il giudizio è di primo grado, ma la legge Severino, ricordiamo, prevede una sospensione dall'incarico per 18 mesi anche con sentenza non definitiva, e su questo è anche intervenuta una nota del Presidente della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari del Senato, Dario Stefano, chiarendo che il testo in questo caso non lascia dubbi. E tra l'altro ci sono precedenti di sindaci e amministratori locali condannati e sospesi, come il primo cittadino di Fasano nel 2014, il presidente della provincia di Latina nel 2013, dunque non ci sarebbero molti spazi di manovra per De Magistris. E con questo è tutto, Simone. Grazie ad Alessandra Schepisi, di questo torneremo a parlare alle 13.35, ma questa è dedicata anche l'inchiesta di oggi di Daniele Biacchessi. Dove è finita la rivoluzione arancione di cui il sindaco di Napoli Luigi De Magistris è stato uno dei protagonisti nella primavera del 2011? Nel capoluogo campano è certamente finita, non per la sentenza con cui i tribunali condannano De Magistris per abuso d'ufficio nel processo Why Not, neanche per le norme della cosiddetta cosiddetta legge Severino del 2012, che prevede la sospensione di De Magistris dall'incarico di sindaco. La rivoluzione è terminata perché a Napoli, sotto la guida di De Magistris, è fallito lo spirito che ha sostenuto l'avvio di quell'operazione politica, e quello spirito si chiama trasparenza della gestione della cosa pubblica e partecipazione dei cittadini alle scelte della giunta. Non sono cose da poco. Certo, ora De Magistris dichiara di voler andare avanti e in caso di sospensione farà il sindaco di strada, che i giudici che lo hanno condannato si dovrebbero vergognare, ma fa impressione che queste parole giungano da uno dei più forti sostenitori della linea giustizialista del nostro paese. E se è vero che la legge è uguale per tutti, la legge Severino è la stessa che ha portato alla decadenza di Silvio Berlusconi da senatore, quindi, come ha sostenuto oggi il presidente del Senato, dovrebbe valere anche per Luigi De Magistris. Il caso dell'ex nunzio apostolico Vesolovskij. Nuovi particolari inquietanti emergono dalle analisi dei suoi computer. Un archivio segreto con oltre 100.000 file, con foto e filmini pornografici, e quanto, secondo il Corriere della Sera, custodiva Monsignor Josef Vesolovskij nel suo computer all'Annunziatura a Santo Domingo. Immagini scaricate da internet, ma anche fotografie che le stesse vittime erano costrette a scattare. L'indagine ora punta ad individuare eventuali complici. Chi avrebbe aiutato l'alto prelato a contattare i minori? Gli accertamenti, peraltro, sono estesi anche agli altri paesi dove Vesolovskij era stato prima di arrivare a Santo Domingo. Nei prossimi giorni si terrà l'interrogatorio. L'ex nunzio continua a dirsi innocente. Altri 4 vescovi intanto sono sotto processo all'ex Sant'Uffizio e ora rischiano la riduzione allo stato laicale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ancora la riforma del mercato del lavoro al centro della discussione politica. Nella notte è tornato a parlarne il presidente del Consiglio Matteo Renzi, evocando tra l'altro i poteri forti. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. È tornato allora a parlare il premier, confermando che il governo va avanti sulla riforma del lavoro, ma il tono del presidente del Consiglio Renzi è sembrato più conciliante. Non ci sarà alcun pasticcio, condivido alla lettera le parole del ministro Poletti, ha detto Renzi. Faremo una riforma fatta bene che sarà degna di questo nome. Più in generale poi Renzi ha parlato di riforme. Siamo pronti, se servirà, a fare battaglie in Parlamento e a sfidare i poteri forti, anche se più dei poteri forti temo i pensieri deboli. A questo punto, Simone, in tema di lavoro si guarda la prossima settimana alla direzione del Partito Democratico, con la minoranza PD che apre ad un compromesso sul periodo transitorio dell'assenza dell'articolo 18. Cuperlo tuttavia avverte: spero che il segretario presenti una relazione alternativa al prendere o lasciare. Renzi aggiunge: l'ex presidente del PD deve capire che da solo non ce la fai, che in casa non ha dei nemici, e che la direzione sia comunque uno spartiacque nel cammino parlamentare del Jobs Act lo conferma lo slittamento di qualche giorno dei lavori d'aula di Palazzo Madama. Il ministro del lavoro Poletti tuttavia minimizza e spiega: ci sono alcune scadenze non rinviabili, ma appena ci saranno le condizioni inizierà la discussione che è già stata incardinata. In chiusura, la presidente della Camera Boldrini, che dice: l'articolo 18 è una questione non cruciale per il cambiamento, non si fa crescita erodendo i diritti di chi ancora non ce li ha. Ed è tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta. Intanto i dati economici di oggi ci raccontano di un nuovo calo della fiducia delle imprese. Nessuna sorpresa o inversione di tendenza, la flessione c'è ancora una volta. A settembre l'indice di fiducia delle imprese è calato a 86,6 punti dagli 88,1 di agosto. Il clima peggiora in tutti i settori: manifatturiero, servizi di mercato, costruzioni e commercio al dettaglio. Il dato è il più basso dal 2014 e si aggiunge alla lunga serie di numeri negativi che stanno raccontando il paese. Non solo il nostro, a dire il vero. Oggi in Germania è stata pubblicata la fiducia dei consumatori. Anche in questo caso la flessione c'è ed è più marcata del previsto. Altra conferma del fatto che anche Berlino, benché abbia le spalle larghe, non goda di buona salute. L'Europa rallenta, anzi peggiora, lo conferma l'indice Eurocoin di Banca Italia, che fornisce una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell'area dell'euro. Il calo ha risentito, oltre che della flessione della fiducia di famiglie e imprese, anche delle deboli condizioni del ciclo industriale e del rallentamento del commercio estero. In sostanza, quello che va dicendo anche Mario Draghi, che parla anche di nuove misure da parte della BCE, tra cui l'acquisto di titoli privati e pubblici. Una mossa che non piace ai tedeschi, che continuano a lanciare critiche all'indirizzo del governatore. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo di nuovo alla politica con gli aggiornamenti e il dibattito sulla scelta dei magistrati di sentire Napolitano sulla trattativa Stato-mafia. Elisabetta Fiorito, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno. È la legge, spiega il Presidente del Senato Piero Grasso, riguardo alla testimonianza del Presidente della Repubblica al Quirinale nell'ambito del processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Anch'io ho testimoniato in questo processo, ricorda Grasso, e avendo la possibilità di scegliere sono andato a Palermo. Il Presidente Napolitano per legge sarà sentita al Quirinale quando concorderanno la data con la Corte. E poi dice sempre la seconda carica dello Stato che Napolitano ha già detto non c'è nessun problema. Per il vicepresidente della Commissione Antimafia Claudio Fava è un atto normale e allo stesso tempo di grande rispetto nei confronti di Napolitano. Da parte del Movimento 5 Stelle invece fioccano le critiche, si insiste che la testimonianza sia pubblica e addirittura per Maurizio Santangelo Napolitano dovrebbe dimettersi. Di parere opposto Daniela Santanchè di Forza Italia, che si chiede nelle mani di quali giudici siamo in Italia. I giudici entrano al Quirinale mentre altri giudici danno i domiciliari all'uomo che ha inferto 16 coltellate ad una donna. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, a te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, e visto che siamo sulla politica parliamo di talk show politici, perché non fossero bastati i dati di Ballarò e del nuovo programma di Giovanni Floris, anche a Santoro le cose ieri non sono andate per nulla bene, così come non sono andate bene per Nicola Porro. Marta Cagnola, ciao, buongiorno. Buongiorno Simone. Beh, subito, e allora, Michele Santoro ha fatto il 5,78% di share. Perché è significativo questo risultato? Perché l'anno scorso l'esordio di Servizio Pubblico ha fatto l'11,43%, quindi praticamente il doppio. Poco lontano quest'anno, insomma, 5,78% di share dal 4 e qualcosa di Nicola Porro su Rai 2. Quali sono le altre notizie? Beh, insomma, Porta a Porta ha battuto ieri sera nettamente Matrix. Porta a Porta 16,3%, Matrix 10,3%, ma Matrix, che parlava di cronaca e politica, Porta a Porta invece parlava di tale e quale show. Quindi Simone, credo che questo sia significativo. Un'altra notizia molto interessante che fa capire quanto la TV cambia, beh, insomma, X Factor ieri sera ha fatto solo su Sky 1 il 3,46% con 1.064.000 spettatori, dato unico perché è in crescita rispetto alla prima puntata. Forse allora ha ragione Michele Santoro, che aveva messo le mani avanti la sera prima di iniziare Servizio Pubblico, che ha detto troppi talk show, spetta a voi fare la selezione, cambiare canale, far sparire le imitazioni senza identità, ma questa sicuramente è l'ultima stagione di Servizio Pubblico. E chissà se l'anno prossimo farà un reality musicale. Grazie, sì. Marta Cagnola. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ci sono 3.000 europei nell'ISIS, un attacco è inevitabile, dice il responsabile antiterrorismo di Bruxelles. In Spagna 9 arresti. Il caso di De Magistris, condannato e sindaco. Il presidente del Senato dice che la legge Severino va applicata. Lui controbatte, l'ex ministra era avvocato della controparte. Decine di migliaia di foto pedopornografiche nell'archivio dell'ex nunzio apostolico Vesolovski. Si cercano i complici. Renzi torna sulla riforma del mercato del lavoro. Non sarà un pasticcio, promette. Angelino Alfano, ministro dell'Interno, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno. Dobbiamo temere attentati sul nostro territorio? Noi abbiamo un livello di allerta molto elevato e ci sentiamo parte di quella comunità dell'Occidente che è certamente sotto la sfida dell'ISIS, sotto attacco dell'ISIS. Non abbiamo minacce specifiche e ben precisate e dunque siamo vigili su ogni possibile segnale, anche il più tenue, il più apparentemente insignificante. Come ci stiamo muovendo per prevenire eventuali attacchi? Noi abbiamo inviato una lettera ai prefetti per rafforzare la vigilanza degli obiettivi sensibili e proporrò al governo l'approvazione di alcune norme che secondo me possono rafforzare il contrasto al terrorismo internazionale. La prima norma che proporrò è una misura di prevenzione che venga estesa anche a quelli che pensano di recarsi in teatri di guerra stranieri, e la estensione di misure misure già esistenti contro mafiosi e contro soggetti particolari, e che io preferirei tipizzare, specificare ulteriormente, definendo al meglio la sua applicabilità nei confronti dei potenziali foreign fighters, cioè di quei combattenti stranieri che quindi non siriani, non iracheni, ma potenzialmente europei o anche italiani si recano all'estero a combattere, e che poi possono dare origine a fenomeni di reducismo, cioè che poi magari radicalizzatisi ulteriormente possono tornare nel paese di origine, nella fattispecie in Italia, a fare dei possibili attentati. L'altra norma che intendo proporre è quella di consentire la punibilità di colui il quale radicalizzato si vuole andare a combattere, anche se non è il reclutatore, perché il reclutatore potrebbe essere il reclutatore già punito in base a una precisa norma del codice penale vigente. E questo naturalmente per quanto riguarda quelli che vogliono andare all'estero. Sul nostro territorio vorrei capire come ci stiamo muovendo e come si sta muovendo la prevenzione. Le ho già detto poco fa, noi abbiamo elevato la vigilanza su tutti gli obiettivi sensibili, adesso a livello europeo, ma già lo facciamo in Italia attraverso una seria azione all'interno della rete, ma a livello europeo occorre muoversi su due ambiti. Uno è quello di controllare il proselitismo che avviene attraverso i canali informatici, i canali della rete, e l'altro livello di attenzione è quello dei passeggeri che attraversano la zona Schengen, sicché bisogna rafforzare la procedura del Passenger Name Record, il PNR, che è un codice che consente ai paesi UE di avere una possibilità ulteriore di censire e di monitorare i transiti dall'area Schengen, che possono essere premessa di spostamenti anche in aree di conflitto o viceversa di rientro dall'area di conflitto. Senta, ritiene che il fatto che la nostra posizione all'interno della coalizione anti-ISIS che sta colpendo Siria e Iraq, il confine tra Siria e Iraq, che è una posizione un po' più defilata rispetto per esempio ai francesi o ai britannici, ci metta un po' più al sicuro da eventuali attacchi sul nostro territorio? Certamente noi siamo parte di quel fronte comune che contrasta il terrorismo, certamente noi siamo fornitori di sostegno a quelle popolazioni locali a cui abbiamo dato anche una mano d'aiuto fornendo con la decisione del Parlamento delle armi, certamente noi siamo in prima linea perché daremo aerei da rifornimento, degli addestratori se servirà dell'altro. Nella gradazione c'è chi è più esposto di noi, ma noi non possiamo trovare motivo per rilassarci dall'essere in una graduatoria di intensità, magari non partecipanti ad azioni più dirette ed immediate. Quindi ci conferma comunque che non ci sono rischi o minacce specifiche che sono arrivate che riguardino l'Italia? Non c'è una minaccia specifica e individuata, c'è un livello di allerta molto alto e al tempo stesso c'è una vigilanza che è stata ulteriormente elevata sugli obiettivi sensibili, e dunque l'attenzione è massima, e al tempo stesso occorre per senso di responsabilità dire che non ci sono delle precise minacce già individuate. Grazie ad Angelino Alfano, Ministro dell'Interno, per essere stato con noi, buona giornata. Ed è in studio con me, perché vi ricordo, siamo in diretta dal Cersaie di Bologna, oggi Vittorio Borelli, che è Presidente di Confindustria Ceramica, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, oggi si chiude questa manifestazione, voglio capire innanzitutto che ci aiuti a fare un po' un bilancio, insomma, al Salone Internazionale della Ceramica. Mi dicevano che qualche segnale, oggi abbiamo visto i dati sulla fiducia delle imprese che sono ancora pessimi, particolarmente per quanto riguarda il commercio, qualche segnalino di speranza lo avete percepito? Beh, è proprio un'occasione questa, è una fiera internazionale per la ceramica, per l'architettura e per l'edilizia e anche per tutto il mondo dell'arredo bagno, è un ottimo strumento di politica industriale, il fatto di poter incontrare tutto il mondo della distribuzione, quindi tutti i professionisti, i retail, le showroom, gli wholesaler di tutto il mondo, è una voglia proprio di andare ad invertire questa tendenza, e devo dire che sia dal punto di vista degli espositori, consumatori che sono venuti con una marea di novità, di nuovi prodotti, di nuove soluzioni, e dal punto di vista del visitatore professionale che è venuto a trovarci con numeri maggiori delle edizioni precedenti, devo dire che questa voglia l'abbiamo toccata con mano. Quindi, come dire, appunto, qualche segnale di speranza sembra esserci, tra l'altro per un settore che, essendo strettamente collegato all'edilizia, ha sofferto in maniera particolare la crisi. Per dare un dato agli ascoltatori, dall'inizio della crisi il settore della produzione edilizia è scesa il 45% circa, contro un 26-27% della produzione industriale generale. Qualcosa si muove quindi? Beh, c'è una gran voglia innanzitutto degli italiani sul mercato nazionale di ritrovare questa fiducia che, come dicevate prima, negli anni, negli ultimi mesi si era un po' smarrita. C'è voglia di invertire questa tendenza. E c'è una conferma da parte dei mercati esteri invece di numeri in crescita. I visitatori sono stati in crescita in rappresentanza anche di numeri fatturati che sui mercati extranazionali, quindi europei e oltremare, sono in crescita. Basti pensare che su alcuni mercati come Francia e Germania stiamo tornando a crescere a due cifre. Questo è un tema interessante ed è l'ultima domanda che le faccio, e riguarda il rapporto mercato estero-mercato interno, perché molte aziende dei più svariati settori stanno soffrendo esattamente questo problema, cioè di avere un mercato estero che tira e ha tirato anche nel post-crisi, e avere però un mercato interno che praticamente non offre spazi e opportunità. Beh, certamente il nostro settore esporta circa l'80% e questo ha contribuito negli anni a bilanciare i risultati finali. Esportiamo l'80% perché siamo stati bravi, perché il made in Italy, il valore aggiunto che riusciamo a dare ai nostri prodotti è molto elevato e lo si tocca con mano nell'innovazione, noi siamo sempre più avanti rispetto ai nostri colleghi internazionali. È chiaro che però noi siamo nati e cresciuti in Italia, il nostro prodotto piace all'estero anche perché è stato messo a punto in Italia, quindi il nostro mercato nazionale ce lo dobbiamo curare, dobbiamo fare di tutto perché torni a crescere, torni ai livelli pre-crisi. Grazie a Vittorio Borelli, presidente di Confindustria Ceramica, che ci ha raggiunto qua nei nostri studi di Cersaie. Siamo in onda fino alle 14, quindi se siete in zona e ci volete venire a trovare, ci trovate qua. Appunto, noi ci fermiamo, c'è la borsa, e poi nella seconda parte della trasmissione, intorno alle 13.35, torneremo a parlare del caso di Luigi De Magistris, una delle notizie del giorno, forse la più importante sicuramente dal punto di vista politico, questo scontro che si sta verificando in questa anche col presidente del Senato Grasso in merito al fatto che De Magistris, condannato ad un anno e mezzo, dovrebbe decadere dalla carica di sindaco. A tra un attimo. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Il caso di De Magistris, il sindaco condannato, il presidente del Senato dice che la legge Severino va applicata, lui controbatte, l'ex ministra e avvocato della controparte. Ci sono 3.000 europei nell'ISIS, un attacco inevitabile, dice il responsabile antiterrorismo di Bruxelles, nessuna minaccia specifica per l'Italia, ma l'allerta è alta, ci ha detto poco fa il ministro dell'Interno, Angelino Alfano. Decine di migliaia di foto pedopornografiche nell'archivio dell'ex nunzio apostolico Vesolovski, si cercano i complici. Renzi torna sulla riforma del mercato del lavoro, non sarà un pasticcio, promette, poi parla anche di poteri forti. La borsa. Borse in diretta. Giornata positiva oggi, più 0,76% sul FTSE MIB, più 0,65% sul FTSE All-Share, positiva Parigi che guadagna lo 0,75% e Francoforte che guadagna lo 0,21%. Isabella Tasso, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, ciao, buongiorno e bentornata. Allora, le cose mi sembra che vadano bene, come mai? Sì, i listini erano partiti deboli sulla scia di Wall Street che ieri ha perso, hanno poi recuperato terreno, anche se resta cautela in attesa di un dato sul prodotto interno lordo statunitense in calendario per le 14.30. Milano ha accelerato anche grazie al buon esito dell'andamento dell'asta botta 6 mesi, che ha raccolto 7 miliardi di euro, con un lieve aumento dei rendimenti, peraltro atteso dai mercati. Vanno bene in particolare le banche, Banco Popolare guadagna il 3%, UBI l'1,7%, il Monte dei Paschi l'1,5%. Resta... E va bene tutto il gruppo Fiat, mi sembra anche, Isabella. Sì, va bene Fiat, decisamente più brillante dell'indice europeo dell'auto. I trader spiegano la corsa del lingotto con la rottura della resistenza posta a 8 euro e con l'attesa per la quotazione di FCA a Wall Street a ottobre. Grazie Isabella anche per oggi, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Saluto Nello Di Nardo, che è segretario in campagna dell'Italia dei Valori, un pezzo importante della maggioranza che sostiene Luigi De Magistris in consiglio comunale. Di Nardo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Le sembra sostenibile la posizione del sindaco? Insomma, c'è una legge che impone che nel momento nel quale sei condannato decadi dall'incarico. Mi sembra che, il sindaco su questo stia facendo parecchia resistenza. Guardi, io innanzitutto voglio dire questo. Per cultura sono un garantista, per cui credo nella giustizia e credo fino all'ultimo stadio che innanzitutto conosco benissimo De Magistris e credo che sia innocente, però ci sono motivi di opportunità e motivi di legalità. Secondo me lui per motivi di legalità si deve dimettere, anche se capisco che a Napoli c'è sta una situazione, lasciare in questo momento la città così è bruttissimo, è difficilissimo. Sappi che tra 12 giorni andremo a votare per l'area metropolitana, per cui avremo un'assemblea di consiglieri comunali se si dimette il sindaco prima di consiglieri comunali di Napoli, cioè si creerebbe veramente un grosso problema. Però non si possono fare due pesi e due misure. Io chiesi all'epoca le dimissioni della Tommasiella, che era l'assessore del semplicemente indagata e non condannata. Non posso fare due pesi e due misure. Lui per un motivo di legalità si deve dimettere. Ritengo, lo sono sicuro, sono convinto che è innocente, perché conosco benissimo il sindaco, però purtroppo in questi casi lui deve fare questo passo. Senta, se si andasse alla conta in consiglio comunale, sareste pronti eventualmente a votargli una sfiducia, per così dire, a togliergli l'appoggio? Io credo che a questo non si arriva. Certamente noi come Italia dei Valori faremo e porteremo avanti i valori del partito, per cui non ci sottrarremo a quelli che sono i valori del nostro partito. E quindi? Sì, la sento, e quindi? Voteremo la sfiducia come la chiedemmo per la Tommasiella all'epoca. Cioè non si possono fare due pesi e due misure, le ripeto. Sapendo e ripeto le difficoltà che andremo incontro, perché ci sono grossi problemi sia nella città di Napoli che nella provincia di Napoli. Senta, mi scusi Di Nardo, ma fatti i conti, che lei ce l'ha più sotto mano di me, perché diciamo non sono un esperto della politica interna al Consiglio Comunale di Napoli, tolti voi sostanzialmente De Magistris non ha più maggioranza a questo punto? No, mancano due. Veramente solo per due voti non ci sta più la maggioranza del Comune di Napoli. Senza i nostri sei voti si va a casa immediatamente, chiaro? Ho capito. E quindi probabilmente si andrà a votare, immagino, a questo punto per il Comune. Ma se qualcuno chiederà la sfiducia, sicuramente si andrà a votare. Però ripeto, sarà una situazione difficilissima, soprattutto per i cittadini di Napoli, che già vivono momenti drammatici. Tenere una città così poi diventerebbe, non solo per la città ma per tutta la provincia, ripeto, fra 20 giorni ci saranno le elezioni dell'assemblea dell'area metropolitana che vede coinvolte 92 comuni della provincia di Napoli. Ci sarà la mancanza di consiglieri comunali di Napoli. Senta, quindi mi sembra di capire da quello che mi dice, che lei dice da un punto di vista legale De Magistris deve lasciare, ossia che si dimetta o no, comunque c'è la decadenza. Ma a prescindere da questo, da quello che no, mi sembra dire lei... No, non c'è la decadenza. Chiediamo che la decadenza non ci sta. Cioè il prefetto può sospenderlo, non farlo decadere. La sospensione consiste poi nell'andare avanti come amministrazione, perché il vice sindaco continuerebbe... Però... guardi, non c'è la decadenza, attenzione. Sì, c'è la sospensione, però dico, da quel che mi sembra di capire per quello per noi anche da quello che lei mi dice, valori, anche se ci sta una, anche se una persona è indagata, immediatamente si deve dimettere. Questo poi è un altro discorso. È chiaro. E senta, mi sembra di capire che lei ritiene, da quel che mi sta dicendo, insostenibile anche politicamente la posizione di De Magistris in questo momento. Esatto. Esattamente, quindi è politicamente insostenibile. La ringrazio. Grazie a Nello Di Nardo, presidente a capo dell'Italia dei Valori in Campania, uno dei partiti che sostiene ancora De Magistris in Consiglio Comunale, ma come avete sentito sostanzialmente non lo sostiene più. C'è un'altra vicenda, torniamo all'estero adesso, parliamo di Russia, la vicenda di un altro oligarca che finisce sotto processo. In uno dei momenti più difficili e delicati nelle relazioni tra Russia e Unione Europea, un nuovo caso giudiziario fa tornare alla mente la storia di Mikhail Khodorkovsky e della sua Yukos, la compagnia petrolifera, sequestrata e poi finita in mano a Igor Sechin, il potente capo di Rosneft, sotto sanzioni in America. Questa mattina la Corte russa di arbitrato ha disposto il sequestro delle azioni di Bashneft, compagnia petrolifera dell'oligarca Vladimir Yevtushenkov, agli arresti domiciliari. L'accusa è di violazioni compiute durante il processo di privatizzazione della compagnia, ma il sospetto è che Yevtushenkov sia finito nei guai perché si è rifiutato di vendere Bashneft proprio a Sechin, che già aveva inglobato in Rosneft Yukos, la compagnia di Khodorkovsky. Ora le azioni della sua holding sistema di Bashneft stanno crollando alla borsa di Mosca, mentre l'ipotesi che lo Stato si appresti a mettere le mani sulla proprietà di Yevtushenkov conferma l'idea che Vladimir Putin, che si sente sotto attacco per la crisi con l'Occidente nata in Ucraina, reagisca consolidando ancora di più il controllo dello Stato e dei falchi sul paese e dunque anche sull'economia. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore. E a proposito di rapporti, soprattutto l'Europa con la Russia, l'Europa ha condannato il divieto di entrare in Russia all'europarlamentare tedesca Rebecca Harms, capogruppo dei Verdi al Parlamento europeo, che appunto è stata respinta al suo arrivo all'aeroporto di Mosca. La protesta è arrivata sia dagli europarlamentari, naturalmente, sia da Berlino. Tutto per effetto giorno in diretta oggi da Cersaie a Bologna, qua a Cersaie ringrazio per la parte tecnica Paolo Corleoni e Davide Ciocia, a Milano c'erano Gianmarco Ferronato e come sempre in assistenza in redazione Laura Faggin, grazie come sempre a tutta la redazione di Radio 24 e a tutti voi per l'ascolto. Effetto giorno torna lunedì alle 13.